cambio un coso, un Transalpa, un Transalpa 650, perché dice che non ci arriva, mi ha telefonato oppure mi ha detto che non ci arriva, te lo sarà comprato, mi ha fatto una cagata perché ha detto che non ci arriva a terra, che è troppo basso. Se io sono alto, mi ha detto, così sono alto, ma non mi interessa perché sto vendendo la moto proprio per non averla più, non perché per comprarmene un altro. E un altro invece mi ha scritto se accettavo il pagamento due volte. Sì, sì. Due volte. Io gli ho scritto, conservati i soldi, quando ce li hai tutti me li dà. Quanto la penale ho già? L'ho messa a 3,2, il valore era 3,8, l'ho messa a 3,2, non riusciamo a vedere la macchina 3,2. Ma è nuovo, l'ho tenuta bene, non è che sia... Cosa c'è di nuovo? Non c'è niente, perché è nuovo la moto. Si è tenuta bene. Sempre tutta tagliandata, con bauletto, due caschi. Le ho cambiato da poco la pompa della benzina, perché quella benzina che c'è, la sporca, deve sembrare rovinata. Solo la pompa costa 220 euro. Tu pensi, sembra l'ultima a tenere una moto. Le ruote, va a cambiare una ruota, costa 120 euro. Una ruota costa 120 euro, cosa che quella della macchina ne costa 80. Costa tutto di più, Luca. Non fanno a tenere una moto così. Costa un bel la roba, i pizzi costano un bel. E la qui è Honda costa un bel pizzi. No, la mia è Suzuki, non è Honda, Suzuki 400. Ah, è vero, tu Suzuki, è vero. Comunque nuova, io uso come ti devo la roba io, tutta questa perfetta, rilusso. L'unica cosa che c'ha è che l'altro giorno ho messo delle cavalletto, ho preso l'equilibrio, e non mi serve andare a morte in interrubiti, la pedala sul piede, stavo aspettando che ci sia qualche mio collega, non riuscivo a alzarla, cazzo, mi sembra solo vista brutta, mi faceva un bel male il piede. E alla fine ho messo tutta la forza che avevo, l'ho sollevata, appena appena ho tolto il piede, poi l'ho riappoggiato in terra e appena appena si è graffiata. Sotto, si ride, prima coperto con l'aero, poi messo sopra il telone, messi gli elastici, tutto quanto per non passare l'acqua. E che non c'è mercato adesso. L'ho detto anche a un amico che c'ha un negozio di moto, da Portottore, se mi ha detto già. Questa moto si vale 3.800 euro, ma se tu la vendi 2.000 euro non ti ricompare già nessuno, perché non c'è mercato. È un casino, poi adesso a venderla adesso con questo tempo, d'estate vai la vendi di più. Messo anche d'estate, sull'occasione, su chi vivi, come ti si chiama, chi si dice. La devi mettere, su subito.it. Anche lì l'ho messo. Allora niente, non va di nada. No, non c'è mercato di adesso, Luca, è il periodo che chi ha i soldi può comprare, perché svendono tutto. E quindi chi ha i soldi fa affari, ma chi vende non li fa di certo. Lo so. Ma sai che moto mi piace a me? Il T-Max, cazzo. Anche il modello vecchio. Che a me? Io prima di prendere questo mi volevo prendere il T-Max. Solo che costava troppo, costa oltre 10.000 euro. Lo so, ma tu la seconda mano adesso, pochi soldi. Sì, già lo so, e quelle vecchie camminano di più, lo sai, quel tipo modello vecchio cammina di più. Lo so. Ce l'ha, sai chi? Un figlio di Tore, quello della pizzeria, è modificata, lo sai che c'è un variatore, cammina un bene. Quella era quella di Claudio, già lo so. Cazzo, Claudio aveva fatto una fara, ha preso a nuova. Poi l'ho vista così dire tutto cazzo a bici, tutto un buccio mare, mamma mia, quando c'era il figlietto. No, ma non c'è nessuno già. Poi io sono entrato adesso a casa, perché siamo andati anche a comprare il kimono a Marco, invece non abbiamo trovato la taglia sua e l'abbiamo ordinato. Il Carazzi, adesso vuole fare anche il tiro. Dice, ma Marco, devi deciderti una cosa o l'altra, non è che si può fare tutti e due. Papà, mi piacciono tutti e due a me. No, non si può ottenere tutto, vabbè, c'è il tempo, ma quando sarà più grande, che lavora, che uno finirà la scuola ovviamente, no? Quando sarà più responsabile, farà uno e l'altro. Uno sport lo deve fare perché si deve muovere e gli fa bene, dai, fa bene fare sport. Stava facendo piscina sin dall'anno scorso, ha fatto piscina, adesso ha cambiato, vuole fare karate, vabbè, sai come ti dicevo, i cattoli animati, no, che fanno combattimenti e cose, lui è preso da queste cose. Beh, ti credo, sì, vabbè, è piccolino, bambino, ma comunque, va bene. Interessante che sia sempre contento lui. Ma infatti, no, già le piace, già le è piaciuto. Prima era un po' tentennato e poi quando è andato che l'ha fatto, ha fatto un paio di lezioni, le è piaciuto. Ti credo. E anche per fare un po' di movimento, dai, si assottiglia un po' così almeno. Se no, se sta in casa, sta di sempre mangiando e guardandosi i cartelli animati e facendo. Capo a capo. Stavo dicendo già, Così. Stavo dicendo, c'è sempre tu alla radio, sì. La radio? Già hai capito. Ah, vaga. Ma com'è la tua? Stanziona. Prezio Vittorio. Questa fa la radio 1003. Una bomba. Ma quella di quella persona là, è quella che mi hai fatto vedere. Della persona là? Ah, sì. L'avevi messa a posto la batteria, hai detto che era la batteria che non caricava bene. Sì, si è a posto adesso. L'ho praticamente resettato perché aveva dei problemi. Niente, adesso è a posto. Batteria, seguo la batteria. Non è che duri chissà quanto, poi già dura, dai. E vabbè, no, io con la 12 vittoria che c'ho io dura un bel po', ti fa un bel po' di ascolto. E dura giorni e giorni, senza caricare. Poi si spegne di colpo, punto, poi si spegne, non avevi nulla di là. Però se vuoi ti puoi attaccare l'alimentatore e continuare ad ascoltare, se proprio vuoi ascoltare, capito? Ma sta dando l'alimentatore. Ah, vabbè, ma dopo io ho abbassato il microfono. Ciao, a due. Mi senti bene? Ma cos'era quel fischio che faceva ieri? L'hai capito pure? Sempre da quella cosa del voltaggio. Ho detto, cosa è? Ha toccato la batteria, ho detto un bel trano che non l'ho smontato, non ho preso colpi o niente. È appoggiato lì. Ho detto, strano che faceva questo problema. Praticamente, l'ho smontato visto che non c'era niente di anomalo. Lo facevo prima con l'altra capsula. E praticamente saldando, avevo staccato la saldatura, no? Scaldata troppo. E quella che c'era prima, quella mamma Sadriano, quella l'avevo modificata, molte volte mi andava bene, molte volte mi portava dei fischi, no? Innescava, boh, non lo so, vabbè. Allora, l'ho sostituita con una del telefono, con i telefoni bianchi della Telecom. E sto usando quella, ma non l'ha più fatto. Infatti non capivo dove era il problema. Ripeto, ho abbassato il voltaggio dell'alimentatore, poi l'ho rimesso di nuovo a 13,8, non l'ha più fatto. Allora, a casa stavamo guardando un film da internet, no, tutti gatti impari. Allora sai che a un certo punto è uscito un pornazzo senza mettere nulla, senza toccare nulla. Su internet stavo guardando un film, io, Manuele, il ragazzo, mia moglie, il bambino, tutti quanti insieme, di colpo è uscito un pornazzo. Strano, come lo vedesci? Allora, se tu per una prima volta non entri, non ti apre, cioè se tu apri un sito porno, no? Che si aprono i pop-up e ti dà, e pop-up, c'è tutto, poi c'è i pop-up aperti, e tu apri, come tu clicchi su, come adesso, apri Explorer, per esempio, no? Su come ti hai messo Google Chrome? No, stavo guardando un film, Emanuele, a chi deve mettere il televisore per quei film lì, ma stai scherzando, non ne ha mai messo nessuno. E il televisore, solo che l'ha scaricato da internet questo film. E di colpo è uscito questa cosa, deve essere qualcuno che si è divertito a scaricarlo e poi a mettere metà film e metà, capito? Gianni, ti ha appena spiegato, se tu vai in un sito, no? Adesso cerca un qualcosa. Al secondo dove mai non te ne accorgi, che apri i pop-up, ti aprono più siti. E di cui, ma dove ti siti qua, ci sono anche i siti porno. Come faceva a me? Per esempio andavo su con degli amici che fanno radio anche su internet, no? Cazzo, roba di pagine si aprivano, alla fine non sapevo più dove mettere le mani. Ho preso, ho formattato, questo è un altro computer, però non questo che uso adesso. Ho formattato, cazzo, non lo fa più. Va benissimo. Casino il computer già, ma non è facile. Lo devi sempre tenere sotto controllo. Se vuoi che ti duri e non ti dà problemi, poi devi sempre pulire e fare, se no è un casino. Qua ti do un bel poco. Una volta c'erano film di cartoni animati e così, c'era scritto Biancaneve 7 anni, che sta proprio a fare ed era un pornazzo. C'è il sito, il film Biancaneve 7 anni. Sì, allora io pensavo fosse il film normale, no? Un cartone animato per farlo vedere a Marco. Ma Comari non vede ancora che era nell'altra stanza. Non riusciva a chiuderlo qui, andava a chiudere e non chiudeva lui. Molte volte si impalla. Quando è così, pigi sul tasto di accensione e lo spegni. Una volta lo fai riavviare, lo fai avviare. Non ho data provvisoria, ma Windows. Già lo so. No, io ho messo CRL e calci. CRL e calci. CRL più calci. Non cancellato. L'ho tolto così, perché dalla X non cancellavo. Premevi un po' di volte e si riapriva. Oppure quando capita così, a me mi capita, cioè a me adesso non più, con questo no, con l'altro, mi sapevo un paio, mi si non chiudevano, boh, strano detto. Prendevo, ma io non ne ho problemi, non ce ne sono, sono bambini qua. Appiccavo sul tasto di accensione e niente, lo facevo tutto da lì. Molte volte si impallava, ma io non ho capito perché il vostro PC più andava bene, non lo so perché si inceppa, non è veloce, capito, è formattato, unda. Io ho messo la disca da 500 giga, perché è nuovo, l'ha visto, poi ho messo una 160, sul originale da 80 giga con 1 giga e mezzo di RAM. Questo operativo ho visto, siccome era tutto pieno di virus, allora io l'ho formattato e ho messo Windows 7 Ultimate, mi sa che è troppo pesante per il vostro PC, dovrei procurarne uno più leggero, prima arriva. Sono Ultimate più pesante dell'altro. E Ultimate è pesante come stavo operativo già, però già vabbè, per questi PC vecchi o per quelli nuovi. Ma il mio già sta andando bene, non mi sta facendo nemmeno più gli aggiornamenti, deve essere che era tutto all'inizio che doveva fare che buca. Ah, io ne ho fatto una parte, ne ho fatto all'inizio 140 mi sa, poi c'erano da fare quelli da, come si chiamano, quelli da, delle lingue, capito? Forse mi sono dimenticato le spunte, ma non ne fa nulla comunque, non è che li fa niente. Poi ti devo far vedere una cosa, quando capita, per fare le pulizie, non mettere i programmi, ti fate su un casino di buco. Già lo so. No, già lascio fare la pulizia, la frammentazione, tutto qua, me ne lo so fare. Ma non è quello, devi andare su Start, cerca programmi, fai percentuale, tieni pigiato la freccia, quella che va verso l'alto, percentuale tempo, scritto in minuscolo, percentuale invio, e ti apro la pagina. Praticamente lì ci sono tutti i file temporanei, no? E poi vai in alto, adesso ho un casino spiegato, che cacchio è. Vabbè, selezioni tutto e cancelli, lo butti tutto nel dolcettino. E poi una volta vai su. Non lo spiegare, già devi venire un attimo, così lo vedi. Già è facile farlo, dai. Così sei più tranquillo e tutto. Poi per aggiornare l'antivirus con l'arancione lo apri e mi fai fare l'aggiornamento. Quindi quanto che lo fai l'aggiornamento l'antivirus? Anche lui rimane verde, non li devi fare. Quando diventa, per esempio, come dire, arancione, diciamo, vedete? Se è verde, a posto. Quando è verde, è a posto già. Cavaga. No, io non ne ho visto arancione, ancora. Ma già... Ma in automatico non lo fa? No. Non penso che si possa impostare in automatico. Ma io ti posso dire una cosa, no? Praticamente dicono che non serve come antivirus, e io ti dico che mi sono entrato antivirus e mi ha segnalato, cioè ha suonato praticamente, ha suonato e poi l'ho levati, cioè li ho messi in quarantena e poi li ho cancellati. Sempre bene. Poi, ripeto, se c'è problemi che non riesco a risolvere, poi è formato. Aggiornamento di male, rimette tutto quanto, mamma mia, va, ti perdi il tempo lì, fai gli aggiornamenti. Poi, vabbè, io devo stare alla scheda audio, perché c'ho la scheda audio esterna. Tutte queste cose. Cercami drive. Comunque ci fanno il tempo, cioè mi interessa, tanta roba mia. Ne ho fatto altri, lo stesso, non ho ripagato, spariti. Mamma mia, la gira di mettere in mano, cazzo. Ma io cosa ti ho detto? E fatti già, Ti ho fatto un lavoro che... Che ci sono ripagato. Ho capito. Ma già ripagato, vabbè. Non c'è problema. Non c'è problema. Lascia vedere, allora. Ok. Capito già. È un casino. Vorrei fare un corso, così che fare molto, molto di più. Lascia vediamo. Si mettono sul di mano, lo faccio. Grazie troppo. Vabbè. Ma ci sono anche quei corsi gratis, bisogna saperlo solo quando li fanno. Esistono dei corsi che fanno gratuitamente per imparare il computer, eccetera, eccetera. Sì, no, io diciamo che sai come farti tu, mi crederai. Con il programma, che fai connessione remota, no? Con quello. Entravo e mi facciamo come si chiama? Io non è che ne capivo più di tanto, guardavo come facevano, guarda la luce, guarda domani, poi su YouTube, poi nei siti a leggere, vedere informazioni, c'è tutto su internet volendo, no? E parto da lì, come si formatta, cosa, quando tu formatti, cosa ci vuole poi, perché mica la... Si mette tutto quello che ci vuole, da Adobe Reader, Adobe Flash Player, poi ci vuole tutte queste cose così, Java, o Java Multicast, si chiama, tutte queste cose. No, non mi piace, poi a me soprattutto piace smontare, pulire, mi diverte di più. Più veloce. Ma a me mi mette volentato questo aggiornamento di Java, come si chiama. e non glielo facevo fare. Poi ieri l'ho chiesto, ho detto, ma tu se ci fa glielo fare, non glielo ho fatto fare. Ma quando se ne puoi entrare nelle chat, se non ti fa entrare. Così. Positivo, ci vuole. Poi io sto soffrendo dei mal di denti. Come vai? Però mi si è formata una specie di pustoletta dentro il dente, cazzo. Sto vedendo le stelle. Non so, forse l'ho stuzzicato, l'ho fatto con la lingua, no? Non è né guasto né nulla, almeno che abbia la radice guasta, non lo so. Però sicuramente come l'ho stuzzicato, l'ho fatto, cazzo, il nervo, cosa ne so, come mi è tutta la base, tutta la parte sinistra. Passa qua, te lo controllare già. Guarda, se ti vuoi fare una bella dentatura, vai, non in Romania, mi esce ogni tanto lì al sito, lì su Facebook mi esce, io mi ricordo il posto, qui all'estero, con pochi soldi ti fai tutta la bocca. Se lo fai qua non ti battono 20 a secondo, 10, su via, là con adesso 3.000-4.000 ti fanno la bocca. In Croazia 600 euro, l'ha fatto la zia di un'amica mia, molto soddisfatta, ha detto che addirittura ti ricoverano in un posto che sembra un albergo, in un ospedale che sembra un albergo, gli hanno da mangiare tutto qua. E te lo fanno in 24 ore, fanno togliendo il dente e mettendo il perno, togliendo il dente e mettendo il perno, nel buco del dente ci mettono subito il perno, che è appena appena più grosso del buco che c'è, no? Lo avvitano, mettono il perno femmina, poi ti mettono, io ho visto l'operazione, l'ho vista ieri proprio, me la sono seguita, ti mettono un perno maschio dietro i denti, c'è una specie, c'è la dente, la dentiera che è bucata dietro, li rifilano un perno maschio e lo attaccano. In 24 ore tu te ne vai con la dentiera già fatta. Vabbè, diciamo che loro quando fanno questo tipo di intervento non è che ti fa male, perché c'hai non i bussi, no. Sì, vabbè, te lo fanno, però ti fa male, devi aspettare un po' che si deve stare bene la tutta la balanata. Che fanno l'intervento, ti mettono i punti attorno dove hanno messo il chiodo, diciamo, hanno messo questo perno attorno perché hanno scalzato per metterlo bene, l'hanno allargato il buco del dente, fa uscendo, togliendo il dente, uscendo il sangue, loro aspirando, infilando subito col trappanino, infilano questo affare, lo avvitano sino in fondo e via. Sì, lo so, l'ho visto, io ho visto video, basta andare su YouTube, è pieno. Solo che la Croazia è troppo lontana, se c'è qualche problema devi andare in Croazia. Qua io ho conosciuto un camionista che purtroppo ha avuto questo tumore al palato, ha dovuto togliere tutti i denti, aprirlo e togliere il tumore, e poi ha fatto la dentiera in Croazia per risparmiare qualcosa, e ha avuto dei problemi, doveva essere stretta la dentiera perché si stava mollando, è andato dal dentista e gli ha detto, lui dove l'ha fatto in Croazia, la vada lì a farsi riaggiustare, è andato da un altro, gli ha detto la stessa cosa, il terzo che è andato l'ha fatto pagare una barca di soldi solo, ha detto, perché l'ha fatto in Croazia, se vuole io glielo faccio, però non deve dare tanto. Dice, quindi non conviene, io non te lo consiglio. Quando gli ho chiesto il consiglio, lui gli ha detto, guarda, non te lo consiglio. Lavorano bene, però devi essere vicino, perché se qualche problema se tocca partire là. Passano però, Detto che praticamente dopo che ti fanno questa dentatura, ogni tanto stringono, perché nell'assestamento tende a cedere, capito? Una volta che si è assestato bene, poi che restringi bene tutto quanto che si assesta, non ti dà più problemi. Già, il problema è, vedi, torniamo sempre lì, perché se tu vai là, ti fai tutto il lavoro, che si si risparmiano adesso 3, 4, 5 mila euro, e poi magari hai dei problemi, poi te lo fanno dipendere in Croazia, e io non dico come. Sì, io guarda, ho letto anche le persone che sono andate che l'hanno fatto, soddisfattissime, personale molto gentile, molto disponibile, un posto molto accogliente, vengono a prenderti all'aeroporto, tutto, fanno tutto, hanno tutto un servizio particolare. Sì, sì, lo so. Risparmi però, comunque molte persone sono andate ma non hanno avuto dei problemi, nessun tipo di problema. Poi non lo so, è un casino, ecco. Ma al minimo chiederanno 20.000 euro. Se ti va, cari. Però ne chiedono 600. Infatti Edoardo, un amico mio, è andato e se li ha fatti fare là, c'è tutti i denti apposta, se c'erano quelli davanti che erano guasti, ed era anche deturpante, si buccato, poi con i denti davanti si buccato. E ha chiesto se si poteva otturare, se si otturare si può otturare, però sappilo che è un punto un po' delicato e ti può sempre uscire l'otturare, cioè ti può durare un anno come ti può durare 2 mesi, capito? È come me che ho fatto il disgraziato, che ho stretto, ho tagliato la lenza, anzi col dente, e me l'ho spezzato all'angolo del dente di davanti. E praticamente me l'hanno fatto 3 o 4 volte, ci ho speso una marca di soldi per nulla, perché poi ne esce sempre. Sì, vabbè, comunque adesso dicono che stanno, come si dice, ci stanno lavorando sopra, capito, per fare una cosa fatta come Dio comanda. Speriamo bene. Che casino, eh? Lì, poi vedi, qua se metti un dente o la capsula paghi 1000 euro. Non so se ti basta. 1500 mi ha detto, non so. Casino. E uno non ha. Ma uno non ne ha. Infatti. Ci muore la dentiera scorrevole. Non so, casino. Ho letto lì, ma ho visto lì a telegiornata l'antenna 1, hanno fatto vedere questi dentisti, vabbè, tramite la cosa del come si chiama? Aiuto, della Caritas, mi sa, 400 dentiere gratis per quelli più bisognosi. Sì, lo so che le danno. Cioè, per dire, tu vai all'ospedale e cosa, che non c'hai reddito e cose del genere, e poi ti mettono la dentiera gratis, ti fanno l'impronta e ti prendono. Sì, sì. Tu mi hai visto la fermatrice in brano? Che schifo, me. Dentiera. Dai, fuori. Sto scrivendo una spagnola già. E lei scrive una parola, lui ci scrive una parola, no? Perché lei è in Spagna, a Madrid, io vabbè sono in Italia, quando lei scrive in spagnolo non lo traduce in italiano. Però quando scrive una parola lui ci scrive adesso ciao, come stai? Il traduttore gli scrive, cioè di fare la traduzione, ciao, ti amo. Sta decidendo. Io te chiedo. Ti amo. No, poi scrive, tradurò del merda. Anch'io ti amo. Niente, devi darla, devi fare questo monellaccio. Anch'io ti amo, te chiedo. Te scuccio, ma tu ti ne scivo tra gli zonchi. In che senso? Che senso? Quello gli zonchi. Gli zonchi che so, lui si scende la rotti. Ciao Marcolino, lo sai come si chiamava? Io l'avevo messo più pistello in soffrano. Eia, perché sono notturno, dice. Notturno se andassi sempre in giro, se andassi a locali, a fare la vita di notte. Allora, per non dire il resto. Oh, come mi ascoltate? Bene o male? Bene, bene, va. C'è tutto bello pomposo. Mi fai arrizzare Marco Leone qua. Addirittura, riesci a vedere quanti watt? 10 watt, dai. Lo sto tenendo basso perché la radio è anche più forte, più calda, molto calda. La voce calda della frequenza ce l'ho io, cerca di non rubare le cose. Sì, mi stavo trasmettendo su Ustream, Aspetta. Gianni, doppio, rumio, la voce calda della frequenza. Ecco, questo apparato era più calda però, adesso è un po' più acuta. Preia. No, ecco. Cambio. Ha voglia. Tu lì hai anche il preascolto, vero? Cava. Oh, me la sto sognando di notte quella radio veicolare. Ma no, vediamo. Quale? L'Omega Force. Quanto costa? Costa quasi quanto questo. Costa 3,29. Non è molto, se conti che il Magnum S9 adesso lo vendono a 415, quella 3,29. Ma il mio costa di più ancora, costa più di 5 euro, la uffa, con lo scaldino di 500 euro. Yeah, è quella troppi watt però, io mi accontento di 80 watt in banda laterale, in AM sono una cinquantina modulati diciamo, quando usi il compressore, no, il Top Gun compressor. No, questo qui non è a tu. Sì. Sì. Yes, ecco quello che faccio il sonno. Quanto tempo? Cambio. Ma come l'hai dato? Di 140? Eh? Come l'hai venduto? Vabbè. Non è che mi piace tanto tenere apparecchi che non posso usare. Ah, a me piace, però per fretta è meglio 440. Perché il 140 è una bella radio, hai niente da dire, io il mio era una bomba. Da una parte me ne sono pentito, averlo dato, niente. Non agisce, diciamo, non fa lo squelch, cioè un isolamento di balle. Devi sentire sempre il vostro rumore. Eppure non ci va per il motore. Tanto in locale i segnali sono fortissimi lo stesso. E sai perché me l'hanno sconsigliata? Per quella storia del VCO, che ci sono stati un bel di casi di VCO incasinati. Ho letto anche il perché, ho letto da cosa ha origine questa cosa. Non ci credevo, mi sembrava una cosa così strana. E da che cosa ha origine? Allora, un radioamatore ne ha parlato, ha spiegato come risolverlo. Non so se sia solo quella la causa, no? Praticamente vedi solo dei puntini sul display. Pare che su dei componenti da tarare, la Kenwood per evitare, sai quando usi immobili, no? Sballottamenti, roba del genere, ha usato una specie di sigillante Bostik, no? Come un blocco a filetti, per non far girare dei cosi da regolare. Cosa succede? Che questo con l'andare degli anni, anziché isolare, diventa conduttivo e manda in tilt dei componenti, capito? Capito. Vabbè. Comunque per una ragione apparato e poi deve cambiare la scheda del VCO. No, si può riparare, però bisogna essere bravi, insomma, non ci pitò. Si può riparare, lui praticamente quando è solvente leva questa roba, pulisce bene lì, dove c'era questo coso appiccicoso, questo Bostik come lo chiamano, poi vanno puliti altri componenti, insomma si risolve comunque, è risolvibile, è che è una rogna. E comunque quello è il difetto vero. No, questo no, probabilmente non gli hanno fatto quelle cose lì, non gli hanno fatto quel blocco con quell'adesivo. credo che siano delle bobine, non lo so. Sei presente tipo medie frequenze, ci sono delle cose da tarare, loro li fissano con quel collante alla Kenwood, che poi diventa conduttivo e ti manda tutto in tilt. Nei baracchini mettevano la cena, là. E via, nei baracchini. C'è questo rumore? Ma vanno, questo internet mi sta scocciandomi. Scusate un attimo. Vai Luca. Poi a casino non si apparecchia. Preferisco questi qua io. Sai, alza, bassa con quei video, uno è troppo forte, l'altro è troppo alto, l'altro alla fine ti scucci. Ma sto cercando di fare un sto cazzo di traduttore, non qua, che palle, affanculo, stava non qua. E se vado, lo riapro. Mi dai errore, comunque vediamo un po'. C'è un attimo già. Non capito perché non va. Aspetta, ecco, vediamo. Vabbè, questo forse dovrebbe andare, se vado. Che casino sto cazzo di traduttore. Luca, aspetta, vado a prendermi Luca, che sto vedendo le stelle. Occhi, occhi, occhi, occhi. Boh, qua non sale di più. Che già fa? Ora, deve scaldare un bel qua, vabbè. Apparecchi occhi, Gianni. Gianni è andato a prendere un bocchidi. Sparati, sparati, quello che ha fischiato, sparati. Ti devi ammazzare con la corda, ti devi ammazzare, ma se ne sta bene. Ah tu, se dovevi la tua moto, la do tutta. Ah vero. Ah tu. Sì, no. Se dovevi la tua moto, la do tutta. Ah vero. Faccio sblatter, boh Marco. No, io sento bene, buonasera Antonio. Una candela, scusate un attimino che sto guardando una cosa, un attimo. Ah vero. Com'è? Avvero, avvero sì. Che è Natalino. No, non credo. È una voce cupa, avanti. Cosa tu dicevo? Chi è avanti? No, no, è uno che vuol far capire che c'è. Scusate, sto guardando le stazionali. Come sto uscendo? Sto bene, come mi ascoltate? No, benissimo. La bomba, bomba, bomba. Gava, gava, e non sale questo. Maledizione, oh. Chi è che c'era? Gianni e Luca. Ma quello balbuziente? Non è balbuziente. Se poi sono curioso di vedere la faccia che ha Marcolino Condor. Ma io mando una foto che ridiamo. E perché non m'hai mai conosciuto? Nell'80... Che anno era? 88, buh? Che cazzo, poi sono si è cambiato da 88 adesso. Ma a prescindere, non ho mai avuto il vizio di frequentare brutte persone, quindi è per quello che... No, Antonio era biondino, mi pare, occhi chiari, tutto lì. Cos'ero io? Sono di castano, castano biondino. Può essere, ma sì, cioè, ok, ma boh, dove ci siamo mai visti? Che c'era che anche Pippo, Super Pippo, in Viale Trento. Gira gira, non te ricordi? Me lo ricordo io, che sono smannorato. Meno di niente. No, non me lo ricordo, ma dove? Dove è successo tutto questo? Viale Trento, Viale Mameli, in quell'angolo lì. Stai sbagliando Cristiano? No, sono esaurito fino a quel punto. Ok, Giuseppe è un altro super tipo, l'ho conosciuto e lo conosco, ma non... a te non ti ho mai visto. Vabbè. Non sto scherzando, Marco, te l'avevo detto, non sto scherzando, ci mancherebbe. Ci siamo incontrati, non ho capito per che cosa. Sto discendendo col tipo, non lo so. Trento, mi... Io non sono mai uscito con Giuseppe, lo conoscevo a malapena, ma tipo che nella mia vita l'avevo visto due volte, quelle due volte non l'ho salutato e non l'ho mandato a fanculo, quindi figurati. Hai fatto bene, dai. Ma radio dove ti si può vedere? Ah, io Facebook non ho, non uso quella roba. E WhatsApp? No, no, io non uso social network. Mi sembra una perdita di tempo. C'hai ragione, invece il baracchino è una cosa interessante, soprattutto se ti metti nella condizione di parlare con Gianni e con Luca, oh via. Ma sparati. Vorresti dire, cosa mi vorresti dire a me? Da, senti, sentiamo, da, cosa vorresti dire, da? Io ti vorrei dire tante cose, il problema è che poi non le capisci. Avete sovramodulato, ditele una alla volta le cagate. Io ho detto il giudice è entrato. Tu sei dormito, la c'è morta, la do tutta io. E che non hai sorella, se non te l'avrei detto quella bellissima ultima. Buonasera Grondino. Mi è sembrato che sia stato un break. Ciao Papa Francesco. Almeno fossi. A me sarebbe un grande onore. Per me sarebbe una grande onta. Vabbè, non lo vedo tutti nella stessa maniera però. No, sto scherzando. Sembra un papa buono, buono in tutti i sensi. Luca, dici la tua. Cosa, già, dimmi. Che mi ha chiamato Papa Francesco Grosse. Ho detto, almeno fossi stato. Vabbè. Che è avanti? C'era Gian Giulio. Ah? Mica è grotte, lì. Cazzo uffa, cazzo giabbo. Fai i miei rubiciocchini. Quello è Gian Grodde. È un finocchiodde. Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando di te. Parlando, sparlare, sparlare, vuol dire parlare sparlando. O parlare male. Cosa stavate dicendo? Che c'è il capo di ginocchio. È vero. Avanti mascherazzo. Davvero? Sì, davvero, davvero. Stasera mi sei sembrato tu, ma non eri tu. Ma non eri tu. E infatti ho detto che è strano. Era con una ragazza in minigonna, ha detto non è lui, no. Ah, ma io ora sono solo a casa con le minigonne, basta, capito? Mascherato. Ma sai perché? Perché ha tutto bello in abito, come ci tiri tu la domenica. Mascherato. Comunque me la sono assicurato, no, poi non sono uscito stasera, ho finito tardi e ho fatto le cosettine e niente, quindi no, non ero sicuramente non ero io. Mascherato. Che? Grode, ascolta, mangiatela la Simmental però quando usi il barattolo come microfono, prima di usarlo. Perché? Okay, la Simmental, cos'è che c'hai da dire? Sembra che stai parlando di un barattolo, ti lo conferma, eh. Vabbè, c'è un barattolo, poi c'è una tambullana, era fatta questa qua, lo sa, questo pezzo qua, là. Vabbè, non si capisce niente, è tutto imbastato, Gianni, tu lo stai capendo? Sì, io lo capisco, non è bellissima la radio, ma lo capisco. Però la radio adesso, come la modulazione, si è migliorata? Insomma, così è. Non è che sia splendida, ecco, però è comprensibile. Ma come? Sì, prova a vedere adesso sì, com'è la modulazione, 1, 2, 3. Se ti sei allontanato va meglio. Però vedi tutto impazzato, è tutto mi. Ok, ok, aspetta. Ok, adesso guarda adesso com'è la modulazione. Aspetta un attimo. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. Ma in predominanza di gravi, sì, tutto impazzato. Cioè, gli dovresti dare più acute, adesso non so se riesci a farlo, ma è strano, boh. Perché siete solo qua, vedi che appena puente. Ora. Gianni, cos'hai detto? Hai un'alternata sotto, provare a non parlare a prima della portata. Guarda proprio adesso. Ma sentite voi l'alternata, io sono in cuffia d'assenza. Che apparato c'hai? Ma siete alternata anche adesso, guarda a vedere, 1, 2, 3. O hai qualche ventola accesa per alternare? Ah, c'è la pentola accesa, dai, che c'è di un altro apparecchio. Com'è adesso la modulazione, o grode? Mi è migliorato un pochettino, però è sempre strano, che apparato hai? Ah, è un baracchino, dai, è un baracchino piccolino. No, sembra che ci sia la capsula che ti fa la voce battata e impattata. Cioè, è come ha detto Gianni, è comprensibile, perché si capisce quello che dici, però se parli velocemente non ti mangi tutto. Ed è tutta wow. Capito? Non boh, strana, ci mancano acuti. Tu non sono da lì, già. Vabbè, riprende. Ma voi lo sentite quando parla, che c'è alternato? alternata non le sento, c'è un ci sono scariche elettrostatiche nell'aria, nel senso che si sente che c'è QRM, anzi QRN, però è il microfono strano, sembra che abbia una capsula microfonica che non tira dentro a tutti. È classico dei baracchini, quelli piccoli, tipo l'Alan 100 Plus, queste cose qua. Mettici le cuffie, Antu, prova a ascoltarlo bene. Marco Collo. Ma se lo ascolto un po', diciamo, con un po'... Non è... Come posso... Non è, diciamo, chiara, poi se no è la sua timbrica, Riprendi mascherato. Fai un passaggio lungo, mascherato. Abbassa mai di voce. No, sto parlando... Vabbè, sono 20 centimetri, ma sto parlando piano piano. Se parlo forte così, mi... Gianni! No, che sono in cuffia. Mascherato, mi senti? No, non mi sente. No, Luca, quella è la sua voce, mi... Lo conosco a Fabrizio di persona. E così è la voce, Luca. Fa timbrica, Cielo duro. Fabri, dimmi. Prova a parlare a vedere se la sento di nuovo. Guarda adesso com'è la modulazione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La modulazione è chiara adesso. Ma sento sempre questo ronzio. C'è una ventola accesa dell'apparato, capito? Aspetta, guarda adesso se la senti in questo momento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, grazie. Secondo me con è una modulazione ovattata, è tutta scura. Vabbè. Oh, si sente qua la ventola? Si sente quell'orologio che hai detto, quel pendolo che fra l'altro è anche messo, non è messo in verticale, impostato perché fa tic-tac, quindi deve essere storto, poi deve mettere la piombo. Perché addirittura si sente il tic-tac, mi? A meno che non sia il tuo battito cardiaco, sì. Ehi Luca, ho il pacemaker. Allora, occhio alle portanti lunghe. E occhio ai watt, poi soprattutto. Cavolo, mi auguro che stia scherzando. Io spero di no. Senti un attimo, mascherato, ma cos'è, una saponetta quella lì? Cioè un mic saponetta? Ma cos'è l'MC60, non lo senti, lo sta... Sto dicendo mascherato, mascherato, non a Marco. Ah, mascherato, ti ho offeso perché l'avete degradato, Degradato, se fosse stato comandante l'avremmo fatto calcolare, però quando ti danno i controlli giusti non ti denigrano, anzi ti mettono nella condizione di fare qualche aggiustamento e di ottenere la modulazione al meglio. Mascherato, avanti. Allora dimmi che mi sono sposa, ma sei veramente, capito? Tutto lì, ognuno mi ascolta come vuole, non c'è problema, capito? A chi piace, a chi non piace. Ok, tutto lì, riprendi già. Comunque degradato è giusto perché ci sono delle condizioni di degrado e non sono comandanti. Yeah, comunque se vuoi ti faccio una registrazione, intanto c'ho il digitale qua e ti faccio capire così ti ascolti e capisci cosa significa quello che ti ho detto. Ma non me lo frega niente, guarda, non me lo frega neanche sentire la lavorazione. Vabbè dai che sto finendo la cosa, compiuto, se no fuori in casino e devo ripetere tutto a capo. Ma continuate il ascolto. Cosa ce l'hai fatta a demolirlo? Non dire cazzate, madonna, no, perché se si è offeso mi dispiace, ma non credo ne possa fregare di me. È importante che i controlli sempre da dei veri, se io sono disposto a registrarlo per farli sentire, se realmente se è una saponetta, per quello che gli stavo chiedendo, se è un mic, basta mettergli una resistenza da 1800 ohm e risolvi il problema, nel senso che gli dà un attimino più di acuti, perché molto spesso anche le modulazioni cupe possono dipendere anche da un eccesso di stazionare, ricordate, io se un domani mi dovete sentire o mi dovete sentire un attimino con problemi vorrei che me lo diceste, se non è che... Sto scherzando. Ah, non mi sono mica avvertito per queste cose a CB, no? Io ci ho accreduto. No, lui è radioamatore, aspetta. No, io non sono niente, non mi offendo a fare cose serie, mi offendo per il baracchino. Allora ci siamo messi male veramente. Ma cosa c'entra nei cicchi adesso? CB, cicchi, la verità. Va bene, mascherata. Se stai all'ascolto, buona dice di buco, ci sentiamo magari un altro momento. Avanti, Luca. Alla prossima, se vuoi rimanere noi siamo qua. Avanti Marco. Ok, va bene. Volevo chiedere una cosa a Antonio, secondo lui almeno, per non fare andare a vedere internet, qual è la differenza tra sovversivo ed eversivo? Nel senso che non devo andare io a cercarla, nel senso che non vuoi che vada a cercarla e che ti dica qual è la differenza. No, io non ho voglia di alzarmi e andare nell'altra stanza dove c'è il computer. Sai che sta controllando? No, negativo, non sto controllando. Allora, sovversivo dovrebbe essere una persona che tende a sovverchiare una, di solito, un potere politico. Quindi stai tendendo a sovverchiare, a rovesciarlo a tuo piacere, a tuo, per farne un tuo vantaggio, sovversivo. Eversivo è una persona che al contrario cerca di creare un qualcosa e non di rovesciare un qualcosa di già esistente. Ah, ok, non so perché. L'altro giorno si stava parlando con gente un po' dell'ambiente sbirresco, no? Di una persona, ma la persona era di quelli della sinistra giovanile, praticamente ti dico come si conciava per andare a scuola, si metteva il baschetto con la stella rossa, si teneva la barbetta stile Che Guevara, sguardo sognante, no? Ecco, un tipo, praticamente l'hanno definito eversivo e non sovversivo, e io francamente non mi ricordavo, non sapevo proprio la differenza. Sì, quello lo conoscevo anch'io, ed era noto come il Che Guevara. Diciamo che sovversivo ed eversivo hanno realmente una stessa natura, adesso che mi hai stimolato e ricordo da quel poco che dice il dizionario, che chiaramente sto leggendo. Qual è la differenza tra eversivo e sovversivo? Allora, c'è una base comune nei due vocaboli italiani che anche per significato sono piuttosto vicini, entrambe rimandano al verbo latino vertere, rivoltare o rovesciare, come ti stavo dicendo, meglio dire rimandando a due composti di vertere, che indica il movimento violento del distacco. In particolare sovversivo non vi è ricavato direttamente dal latino, aspetta te lo dico, chi tenta di rovesciare, quindi l'eversivo è chi tenta, anzi il sovversivo è chi tenta di rovesciare le istituzioni statali, è quello che ti ho detto prima io, sovversivo, mentre invece eversivo che intende rovesciare o abolire qualcosa, quindi è un, sono molto simili, però diciamo che uno è più attinente a quello che rovesciare un potere politico, mentre invece l'altro è esclusivamente al cambiamento di un qualcosa in particolare. Quindi loro hanno utilizzato il termine eversivo. Cazza, eversivo l'hanno definito. Quindi rovesciare o abolire un qualcosa che non sia prettamente di origine politica, perché sennò diventa un sovversivo. Ho capito, va bene. Mi ricordo la persona, sì, lo conoscerai, di nome fa Marco lo stesso, il cognome va bene, non lo dico e me ne frego. Ci avevo modo di fare anche abbastanza stronzetto e mi ricordo all'epoca, perché sappi che io ho fatto almeno un anno in industriali, commerciali, magistrali, istituto d'arte e geometri, ma geometri, scusa, ragionieri. come ti c'era Beelzebub, allora sì che sarei stata una persona in gamba. E comunque sì, me lo ricordo all'università, perché io devo sapere che ho fatto anni di fronte della gioventù, e quello lì era noto come il Che Guevara, e dire la verità, se non sbaglio, veniva da Bonorba. La verità non lo so, io credo fosse di Sassari. Il cognome è Peltz, comunque, Peltz, scritto Peltz. Ah sì, Peltz di Meldez. Vabbè, era fissato sempre con la rivoluzione, con voler sempre fare casini per... Sai quelli che si vogliono, che volevano fare mille battaglie e poi alla fine non ne concludono una. Io invece ne conoscevo uno, si chiamava Gastriti in piazza, che si vestiva così lo stesso. Ma il problema lo sai che cos'è? Quelli là non sono né versivi né sovversivi, sono solamente dei marchi. Uno perché si ispirano a qualcosa di esistente, che è esistito già e che è burmoso. Ma a prescindere, se uno si deve fare comunque una natura caratteriale propria, non è che deve imitare un qualcuno, che tra l'altro è fuori luogo e fuori tempo. A prescindere da questo, dico, fa davvero poca paura uno che si scrive in faccia sono un terrorista, perché lo capisci subito. La persona da temere è quella che apparentemente sembra il ragioniere che ogni mattina si alza, va al lavoro, c'ha i figli, c'ha... e poi diventa quello che chiamano una bomber. Il mito della nostra presenza, comandante Che Guevara. Infatti questo suo mascherarsi da Che Guevara, no? Poi decenni dopo la sua venuta per fare il rivoluzionario, a me faceva solo ridere. Un fanatico era, come ce ne sono tanti altri, come c'è quello che si crede Renato Zero, non so se avete capito chi è. E chi è? Ma di Sassari. Sì, come rappresenta Teresi e cose, come ti diciamo? Pelle Santi, tu Savia. No, non Pelle Santi, un altro, Chico Solinas. Quello non ce l'ho visibilmente presente. No, l'altro lo conosco, quando aveva i capelli lunghi, che più che altro sembrava Piero Pelù, una cosa del genere. Molti anni fa però. Una volta avevo fatto servizio in uno spettacolo, un grande spettacolo dove ci sono invalidi, ci sono più ragazzi down, eccetera, eccetera, al palazzetto dello sport, io ero al cancello, dovevo chiedere i permessi per far entrare le macchine, perché dovevano avere il permesso, se no li facevo entrare. Si è presentato lui col Mercedes, Pelle Santi, ha fatto buongiorno, ciao, ha detto mi presenta, deve entrare, detto, sì, mi dovrebbe dare l'invito, il permesso per entrare con la macchina, e lui mi fa, ma sai chi sono io? Io sono Pelle Santi, io sono anche lui da furti. Dice, devo fare lo spettacolo anch'io. Ah vabbè, se devi fare lo spettacolo entro, non c'è problema. Ma non ti avrei riconosciuto, non ti conoscevo. Infatti immaginati, strano anche, mi sembra che Guido Mercedes, perché fino a che l'ho conosciuto io, mi sembra che aveva 35 anni e ancora non aveva la patente, figurati. Sì, è un Mercedes, allora se l'ha cambiato non lo so, c'era un Mercedes il giorno. E ha fatto lo spettacolo, ha cantato anche. Me lo ricordo quando avevo i capelli lunghi negli anni 90, c'è una via, era in una vetrina di un negozio che c'è in via Manno, mi sembra, no? All'altezza di Montineggio, ex Montineggio, ero con la mia ragazza, quando siamo arrivati di fronte alla vetrina c'era lui che stava facendo un qualcosa per il pubblico, no? Per chi passava, attacca a ridere la mia ragazza, cioè ci siamo dovuti fuggire. C'è un negozio, mi pare, c'è un negozio. Ma non dire cazzate. Io? Ma perché? Io l'ho visto in un negozio in via Manno, non so se fosse il suo o di chi era. Ma non dire cazzate, tu non hai mai avuto ragazza. Ah, per quello, no, tranquillo. L'ha avuta. Vabbè, più di una, però avevano un grosso problema, grossissimo, che volevano essere sposate. Invece ha detto no, il babbo, via. Che sonno io. Sto troppo sonno. Ma di cosa che... Chi c'era oltre lui, poi con lui? Luca, ci sei ancora? No, mi sta ascoltando. Ma cosa stai guardando? Vabbè, sono sdraiato. Stai guardando un pochino. Dimmi una cosa, ma ti do la batteria a te? Vabbè, io non uso solo l'ascolto. A me non è che mi devi molto la batteria, mi sa che me la ordino. Mi ha portati lì. Accende un pezzo il portatile, l'ho fatta, accende un pezzo. Adesso sto aspettando di passare un attimino da Vittorio per dirmi qual è il fusibile bruciato, me lo cambio o lo bypasso e lo rimetto, lo rifiatti. Luca, non sapevo quale fosse il tuo portatile, l'ho visto mille volte. È un bel portatile, molto difficile da fare per me. Molto complicato. L'avevo visto tante volte, ma non sapevo che fosse quello. Praticamente riceve in HF, ma riceve in HF solo in FM, AM FM o anche SSB? SSB, AM FM, poi mi altro non lo so. Il video ricevitore che ha avuto lo UPD, sì, quello faceva altro, non faccio male. No, anche questo fa tutto. Questo fa da 0 a 1002 ed ha tutte le bande, tutti i cosi, tutti i cazzi frizzellati. 1003, non 1002, 1003. Quello mettevi lo scanner, era velocissimo, trovava subito la stazione che stava andando. Plus si bloccava lì e via, automaticamente. Me li ricordo di Jupiter, roba bella, con tanti soldi. E costava un milione, ma allora costava un milione e passa. Molto belli anche gli AOR. Gli AOR mi piacevano parecchio, soprattutto quelli da tavolo. Vale 3.000, AOR 4.000. 1.000 mi ricordo. Ma sono dei belli apparecchi. Mi sono messo quadrato ce li ha. Oh, bella roba. Io avevo cercato tempo fa l'AOR 5.000, il ricevitore Kenwood, ma dice è raro proprio a trovare. E chi ce l'ha non lo dà. Te lo ricordi l'AOR 5.000? Guarda che è uguale al 440 di aspetto. Più o meno, sì. Naturalmente fa solo HF, impare. HF, forse può HF con un modulo, vabbè, ma quello a me interessava l'HF. Versione 1, vedo gli FRG 100 o 1000, no, 100. FRG 100, IAES, ed è da 0 a 30. Chiaramente è al pari di quello che stai dicendo tu con tutte le bande, però solo HF. Ma il pittino bastava che tu regolassi l'antenna, la mettevi una certa altezza e ricevevi VHF, la mettevi una certa altezza e ricevevi bene l'UHF, eccetera eccetera. Invece aveva tutto quanto, le bande laterali pure comprese, FM stretta, FM larga, tutto. Dimmi una cosa Marco, ma una volta tu eri andato anche a mangiare la pizza con Falcone, per caso al Saraceno? Negativo, mai mangiato la pizza con Falcone, almeno quello. Anche perché scendeva la bavetta e ti faceva venire lui. E anche per quello. Però qualcuno al Saraceno c'era andato, e non mi ricordo chi. Io sono andato. Al Saraceno? Quando esisteva il Saraceno? No, aspetta, sto sbagliando io, il Saraceno è in via Napoli, io sto dicendo l'altro, mi. Come si chiamava quello in via Mendola, stile spagnolo? Quello era il... come si chiama? Sancho Panza, Don Quixote. Sì, quello. A me piaceva quello come stile, e praticamente il lampadario in ferro battuto, il muro a grana grossa bianca. È rustico, nel senso spalettato a cosa, a gesso. Quello era di... come si chiama? Pizza che aveva un capomanno, tra l'altro faceva, correva in coso, in rete, si chiama Santo, non mi ricordo cosa. Santo Bacchiano. Santo e giù. Ma adesso che San Sebastiano è chiuso, perché non permettono di fare delle visite alla struttura? Ma perché non ti sei per la stessa distanza? Ma è grima durarecci, Mario. Ho saltato la voce, già, io sto cercando di parlare piano. Se non levo il processore, aspetta. No, non le vale niente. Insomma, ma è gribaddo. Dico, che sogni a voi? Oh già, sto parlando piano, mi se mi metto a parlare normale, aspetta. Ma abbassami chi? Ecco qua, senza processore, vedi se è meglio? Il mic again è meglio non toccarlo, sennò è un casino di trovare la posizione giusta al millimetro. Vediamo com'è adesso la modulazione, più spenta? Spenta per niente, gli è tolto il turbo, ma è bella penetrante anche così. È una gaggada. Come una gaggada? Oh, davvero? No, però va bene dire che è una gaggada. Questo è per non disturbare di notte, Gianni. Aspetta che gli metto il turbo a tradimento, da sordo. E attenzione, attenzione. Attenzione, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu écoutes moi. Très fort. Stavo dicendo, Marco, ma quando è che hai ripreso a modulare in questo periodo? Cioè, perché hai ripreso a modulare? Dirittuanto. Me lo sto chiedendo anch'io. Oh, tre anni fa. Ma ero in macchina, lo usavo saltuariamente. Infatti, ve lo dico io, ma non potevi fare altro, non ti potevi comprare il computer, un videogioco, la Wii. No, non uso videogiochi, non mi piacciono. Troppo mi fanno salire la pressione. Cappa, guarda che dobbiamo ritirare su l'associazione, quindi prepara di là perché devi pagare. Io? Ma a me non mi avevate interpellato, no? Vabbè, cosa c'entra? Non è che l'abbiamo aperta, burocratica fiscalmente aperta, però adesso dobbiamo iniziare a operare. Operate. Che belle scariche elettriche ci sono in aria. No, invece Gianni mi è piaciuto quando mi ha detto io adesso vi faccio andare avanti, poi a seconda se mi piace, se state facendo qualcosa in mono io entro, capito? Con comodo. Sì, ma io sono stato coerente con quello che dico. Non è che dico faccio e poi non faccio. Io volevo vedere che gente c'era, soprattutto, perché ci sono delle persone che a me non vanno. Se poi c'era gente che a me mi garbava, tanto di cappello. Se ci sono persone che a me non piacciono, io non frequento l'associazione, punto. Leoncino, facciamo entrare. Il problema è qualche gente che c'era o non c'era, cioè se benissimo quelli che siamo, ci possiamo contare sulle punte delle dita di una mano. Ma il problema è che tu avevi espresso un diverso parere, avevi sentenziato diversamente, avevi detto a seconda di come fate, di cosa fate, di come io vi faccio partire, poi se, quindi non avevi parlato di gente. Vero è anche, questo siccome la frecciatina l'hai data a me, a livello di coerente facciamo o non facciamo, vero è anche che poi le stesse persone di cui tu parli sono quelle che mi hanno arrivato in bassa la gana, come si dice in inglese, di portare avanti la cosa, anche perché davvero siamo davvero in buchi, mentre invece bisognerebbe fare opera di proselitismo e mettersi nella condizione di far entrare le persone che magari ce l'hanno ancora dentro l'armadio, perché non è possibile girare per Sassari, vedere 2000 antenne e poi ci contiamo e siamo in 10. Ma si becca mai di sette, non è la diretta a te la cosa, giuro, non stavo alludendo a te, anzi a te tanto di cappello perché ho avuto la buona iniziativa di farla la cosa, ma poi ci sono stati dei casi, delle cose che magari non ti ho fatto andare avanti, ma ci hai tentato a farla almeno, e che su questo devo darti atto, non è che, solo che io nel momento non me la sentivo di entrare, perché ho pensato tante cose, ho pensato di trovare gente magari che a me non andava, e in più c'erano anche altri problemi, quindi non sto che a parlarne. Però diciamo che se l'associazione si fa e si fa con serietà e con, diciamo, con tutta la voglia di fare, dovevi farmi la pettorina, non me l'hai fatto, e insomma tutte queste cose qua mi hanno un po' deluso, diciamo. Cosa volevi la pettorina per tartene a casa? Nel momento in cui avessimo fatto determinate manifestazioni, ci avessi stato uno di quelli che aveva la pettorina, ti faceva la pettorina e non te ne ha giocato. Cosa volevi la pettorina per stare a casa? Non sai che a casa non ti riconoscesse dei tuoi figli. E dice mia Gianni, e che questo chi è? Questo chi è? Mia Gianni del Pirrome. No, lo deve fare per tutti, lo accento. Uno non è che per forza deve avere per fare servizio, può averla anche per sfociare. Per sfociare dove? Dove volevi sfociare? No, l'idea era quella di fare le magliette nel caso in cui avessimo fatto l'associazione, assolutamente. C'ho la macchina per farle, figurati. Però sono fine a se stesse, se non è una spesa inutile. Comunque a prescindere. Fino ad ora io ci ho messo 250 euro su per tirarla su, fra bolli, fra registrazione, carte fritte e latte. Io non lo sto dando minimamente col patteccio, anche perché uno può prendere le proprie decisioni ed è coerente o meno, ma tu lo sei stato, devo dire la verità. È che sembra quasi che da parte di alcune persone ci sia questo atteggiamento distruttivo nei confronti di chi fa qualcosa. E questo non riesco a capirlo, perché è come il cane del verduraio, che non mangia la verdura e non la lascia mangiare. Si può ritentare, non lo so. Però lo sai cosa c'è? La mia paura è questa, che se non c'è l'associazione tutti frequentano lì e poi la 27 rimane libera, non c'è più nessuno lo stesso. Ci troviamo lì ma ci troviamo come amici, non ci troviamo più in radio, è quello che c'è, capito? Non è neanche così, scusa, tu hai esperienza anzi di una chat dove vi incontravate per mangiare la pizza, per andare fuori, fare campagnate, però rimaneva sempre la bellezza delle cose della chat, o almeno la chat per me è una gagarda, però per dirvi, rispetto comunque ai pareri degli altri, le passioni degli altri, però non puoi cambiare quello della radio, anzi, se andavi a fare le campagnate, avresti la radio, girare con la radio, poter si mette nella condizione di fare servizi con la radio, perché ad esempio la cavalcata li vedo, sembrano dei pellegrini, si telefonano l'uno con l'altro, non hanno una diretta, non hanno una regia, succede casino, capito? Tutti quei servizi lì si sarebbero potuti fare, capito? Quindi vabbè, ritentarci, è che siamo troppo pochi già, siamo troppo pochi. Ma la cavalcata ci sono gli alpinisti, ho visto. C'erano le radio, li ho visti io, c'erano le radio. Comunque, niente, la buona volontà c'era, poi come abbiamo visto siamo andati l'appuntamento anche al quadrato per fare qualcosa, per discuterne. Quello ha dato l'appuntamento e non ci è venuto, l'altro non ci è venuto e siamo trovati io, Giulio, quattro persone contatte, capito? Quattro persone, ma le più serie. A prescindere da questo, perché queste cose non vanno fatte in democrazia, non vanno fatte in democrazia. Infatti la prossima volta se organizzo qualcosa, se mai organizzerò qualcosa, non farò in democrazia, è mia e la gestisco io. Dopodiché chi si vuole accodare, bene, se quando si arriva a un certo numero si potrà anche ritornare in democrazia, perché siamo lì a fare, no? Quando lo facciamo, quando lo facciamo, decido, faccio, chi vuole venire venga, chi non vuole venire va a pescare. Si vuole fare il dittatore. La democrazia c'è e bisogna rispettarla, ognuno ha il suo modo di fare, il suo modo di pensare, e tutti che si fanno i dittatori, faccio il capo, voi dovete fare le pedine, no? No, bisogna essere tutti d'accordo, pensare che quello che si fa per tutti, ecco, quello che a me interessa, non ci deve essere qualcuno dice, certo, un organizzatore sempre ci deve essere, qualcuno che organizza e che sappia come muoversi ci deve essere sempre, questo è poco ma sicuro. Però con più, diciamo, non farlo pesare troppo, ecco questo, perché molta gente non le va, che magari uno prenda dei ridini, capito, non l'accetta molto. Ma infatti hai visto la democrazia dove ci ha portato, democrazia che non si riesce ad avere neanche un appuntamento, invece bisogna, frate, poi tu dice, non ti va bene il dittatore, però ti va bene una persona che se ne occupi, che deve essere morbido, nel senso che deve sentire consigliere gli altri, in breve una persona che per tutti si sbuccia il culo, che si fa il lavoro di tutti e dopodiché gli altri arrivano e dicono, secondo me l'hai fatto male, secondo me questo non mi piace, e fanno dai giudici, no? A casino, invece faccio un'associazione dittatoriale, chi vuole si adegua, se no caccio il culo e fuori. No, no, così non mi sta bene, ognuno deve avere poter esprimere il proprio pensiero, il pensiero di tutti va rispettato e va preso in considerazione, poi ognuno la pensa come vuole, anche io non la vedo giusto il fatto che sia tu o un altro che deve fare il dittatore e poi gli altri devono obbedire a bacchetta, no, non esiste, ognuno ha le sue idee, deve esporle e vedere qual è la migliore, certo, perché no, tutti insieme si vede qual è l'idea migliore e poi si mette in atto. Ma così nessuno ci mette mai d'accordo. No, ma questa è nella tua associazione, nella mia associazione io comando. Vabbè, allora a me non mi fedrei mai nella tua associazione. Allora, se vai potrò anche vedere. Oh, io non entro se non entra Pomponio, eh. Pomponio era cosa, come dici, era direttore della sala radio. Peccato che non era la sala radio. Oh, comunque alla cavalcata io ho visto dei volontari, erano ragazzi, giovani, mi ricordo anche che avevano dei volgari PMR e non si sentivano nemmeno a 100 metri. Guarda, se facciamo servizio cavalcato, la cavalcata cosa, Pomponio lo mettiamo a spingere gli asini golfatti, eh? Siete sopravvodolati. Ripetici l'ufficio, da vecchio un freppa. E invece noi ci portiamo i PMR truccati da 4 watt e riusciamo a parlare in distanza. E non ci riesci lo stesso se non hai un ponte radio. Esiste la possibilità di fare una cosa che si chiama ponte pappagallo, cioè che non è che ho una scheda pappagallo, nel senso che prende il tuo segnale e poi lo ripete. E quello lì non è un ponte radio, non è classificato come ponte radio, quindi realmente lo puoi fare da qualsiasi parte, basta una scheda che interlaccia due radio, una che riceve e l'altra che trasmette. Io conosco l'ATX 2000, ma attacchi una radio e ti fa la pappagallo, ATX 2000, sicuramente è quello, è il più usato. Ma che cos'è? Un relè? Non è una radio? No, è un ripetitore pappagallo, diciamo. Tu richiedi lo spinotto che ti interessa, tipo Intec, Midland, eccetera, anche Baofeng per dire, V5R, quindi capisci a me, no? Vabbè, è una scatolina che ha l'ingresso e l'uscita radio, appena riceve qualcosa la registra, appena finisce di parlare lui la ritrasmette, puoi munirlo di microfono in modo da parlare sul posto da ripetitore, no? Tra virgolette. Lo usano tutti in PMR, capito? Tutti, chi lo vuole usare lo usa, diciamo. Ricordami com'è la sigla. ATX 2000, Alfa Tango X-Ray 2000. Ma lo volevo comprare io, per fare un ponticello abusivo sul palazzo di nonno, poi ho detto ma chi se ne frega. Ma guarda che non è abusivo, non è un ponte, è un ripetitore pappagallo che non c'entra niente, è legale per questo motivo. Se n'era discusso sui vari forum sulla legalità o meno, pare che sia, se non legale, almeno tollerato, perché in realtà appunto non è un ponte, è solo un apparecchio che sente e ripete. Molto carino comunque quello lì, va bene. Poi certi si fanno installazioni più serie, tipo ci attaccano bibanda con 50 watt e vai di segnale. Non si può. E infatti è per quella gente lì che queste cose le vogliono eliminare, se possibile, o farle passare come illegali, perché c'è gente matta che mette su un ripetitore, su un pappagallo, diciamo, ci mette 50 watt in UHF, vabbè 45, ed è roba da matti, e disturba un bel di roba con le armoniche frequenti, disturba chissà che cosa. Antonio, c'è solo un venditore che lo vende in Italia, mi pare che il sito sia omonimo, tipo ATX 2000, te lo puoi ordinare con lo spinato che vuoi tu, lo devi chiedere prima, lo devi specificare prima nell'ordine, praticamente dura varie ore con le batterie dentro contenute, ma c'è gente che gli fa che gli mette batteria, tampone, pannelli solari, antenna esterna, di tutto. Sì, lo sto guardando, ATX2000.org.com. Oh, io l'ho sentito, però a me non piace che degrada la modulazione, cioè se tu a una persona gli arrivi bene di audio, con quello c'hai una piccola degradazione dell'audio, dai, forse la registrazione, non lo so, campionata bassa, non lo so. All'anima delle scariche si sente c'è elettricità, di nuovo qua sentiamo 3, proprio tipica attività elettrica. Allora Gianni, questa associazione, sai cos'è? Cosa penso già? Che se non c'è un coordinatore, non so come lo vuoi chiamare, ognuno dice la sua, ognuno vuol fare in un certo modo e nessuno ci mette d'accordo, capito? Ma sto uscendo. Ehi, stai uscendo, forse al mal di testa da crepare io. E non hai preso occhi? Mi ha fatto un cazzo, mi si è formata una pustoletta dietro il dente. Cazzo, sto facendo bella stella. Che devi prendere lenti, non occhi. Vabbè, sbaglia storga. E anche a me mi è venuta una leggera, uno sfogo, diciamo, dietro il dente, pizzica abbastanza. Riprendi Luca, sì. Ti ripeto, chiudo e ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, avanti grosso. No, Luca, non devi andare, dai, aspetta. Vabbè, ciao. Perché non c'è nessuno? Luca, hai deciso niente? Boh, perché non sente nessuno? Cesar non ce ne sono lo stesso. Ponte Cino? Ponte Cesar. Ma tu, no, ce le ho le frequenze, no? Poi vabbè, un casino. Ma lo voglio dare e ne prendo un veicolare, che se me ne frega, ma di questi. È troppo complicato per me. Non ho voglia di stare a perdere tempo. Veicolare? In cambio di un veicolare, sì. Ma anche i veicolari moderni, Luca, non vedi impostazioni? Sì, vabbè, bene o male, no, questo andiamo bene. Mi fa vedere tanto, lui non sa cosa c'ha. Ma Luca, tu ce l'hai le istruzioni? Lo scaricati da internet. E allora, c'hai le istruzioni? Memorizzi i canali più ascoltati, no? www.pontecisa.cc. Vabbè. Io col mio mi ci sto pulendo il culo, Però perché c'è l'antenna grossa. No, ma io non lo infilo dall'antenna, lo infilo dalla base. Lì c'è il pacco batteria, di bello in bello. Oia, ma sono li buttati. È giusto lo spizio, poi. Serve a praticamente a reggere il soffitto assieme a tutti gli altri acquisti, capito? che con le stronzate comprate ci reggo il soffitto io. Te l'ho detto, comprate un vibratore che spendi di meno e c'è più soddisfazione. Ma ce l'ho già nel cellulare il Vibracal, capito? Ti chiami con l'altro e vibra. Allora, questa associazione a delinquere. Questa associazione da tempo è formata, che ci vogliono un po' di elementi. E qua non ce ne sono, cosa metti? Per carità, Marco, periodo di magra. Vabbè, comunque passa il tempo, l'estate va bene, presso che è finita, ma gente in più non entra. Comunque tutte quelle antenne che vedi in giro, sicuramente gente, sono antenne di 20 anni fa, in poche parole, gente che non entra più, che non ne vuole più sapere, che poi magari gente è di una certa età, no? E allora cosa fa la sera? Se non entra al baracchino cosa fa? Ci vuole la TV, boh, visti c'ha la moglie. Che la moglie, figlia e bambina, quello che ti sto dicendo io è questo. Quando avevo fatto fare l'articolo sul giornale del fatto che avevamo aperto questa associazione, ero stato contattato da tutta una serie di persone, perché realmente ce n'erano di persone che le devi coltivare, che devi andare a fare qualcosa di concreto, e che da solo non ce la fai. Come ha detto Gianni, è troppo comodo affacciarsi alla finestra e vedere cosa passa sotto la strada. E bisogna anche avere il coraggio di scendere, rischiare e passare anche tu per la strada, questo che te ne prancino. Io sono stato contattato da parecchia gente dopo che era uscito l'articolo, e che all'articolo doveva seguire altra cosa, ma che non è stato, che non è stato. Vabbè, non lo so, forse non lo so, non c'è il tanto, no? La gente è demotivata, parlo anche di me comunque. Che stava bippando sotto, bimbi. Ho bevuto una bottiglia di birra, se lo ti fa, andai in bagno 50.000 volte, una bottiglia, più grande se mai avevo 5, cosa succede? Che vai al bagno, come si dice, che pisci da qualche parte ma non è il bagno, adesso non mi ricordo com'era quello lì che pensava di aver trovato la tazza del gesso e non so dove aveva pisciato. Ma dico, cazzo una bottiglia, va. Quella va per il climus amicidiale, è troppo gasata e ti rimane pisciata. Arrivo 10 volte, non sono saltato già, adesso mi mette il pallone il catetere. Qua invece è una camera a gas, non c'è notte di palle. Bip, mi hanno già addormentato. Vediamo, allora, questo è così. Che sia adesso me lo dà. Nulla, non me lo dà. Forse ci voleva la dentosedina, un anestetico locale da mettere dietro il dente. Io usavo quello, è che puzza di dentista, c'è un odore quella cosa. Dimmi una cosa, sì, me lo ricordo, era Cilindretti. Dimmi una cosa, ma cos'è che deve costare questa ATX 2000? Allora, io mi ricordo, o 50 o 60 euro, siamo lì, spedita forse, guarda che sia 60 euro forse, o 50. E poi ti devo dire un'altra cosa, su certi apparati funziona così, nature, su certi apparati devi inserire il Vox, altrimenti non trasmette. Gianni? Gianni non risponde. Mega messo il processore, mi... Ui ui. Hai ragione, 60 euro forse. 62 con PayPal. 60... Aspetta. Anche in contrassegno te lo fanno pagare. Quindi me lo compro. Sì, lo metti a usilo. Con batteria, tampone, pannello solare, c'hai cioè un bel ponte, un bel pappagallo. Sì, basta metterlo con un subtono, in modo tale che non tutti possano entrare, o comunque se uno vuole fare comunicare sullo stesso canale senza il pappagallo, non mette il subtono, e invece con il subtono lo fa. Sì, tutti mettono il subtono, se no chiunque accederebbe, alla fine bruci finali, mi stai trasmettendo 24 ore al giorno. ma esiste un altro dalla Cina chiamato Radiozone, che allora anziché un minuto registra per 30 secondi mi pare, però è comandabile tramite toni DTMF, cioè lo puoi spegnere a tuo piacimento, riattivare eccetera. E costa? È sempre una cinquantina di euro spedito. Il problema è che dalla Cina non ti danno, no, forse te lo danno, lo spinotto giusto, lo spinotto adattatore giusto, radiotone, bello che si possa spegnere, l'altro non è così. Questo lo puoi spegnere con toni DTMF, basta un portatile bibanda o monobanda con i toni e lo puoi disattivare. Quasi quasi. Sì, è un ripetitore provvisorio nelle zone operative da mettere in alto, solo che bisogna conoscere gente. Metti che tu lo voglia mettere, che so, a metà strada nel percorso della cavalcata per esempio, bisogna sapere dove metterlo. Come fai? Bisognerebbe conoscere qualcuno che ti ospita in un terrazzo, che ti faccia mettere questo apparecchio, se no come si fa? A livello del terreno è inutile. Ogni volta che comunichi tu comunque ti devi risentire la tua voce prima che qualcuno ti risponda. Sì, c'è quel ritardo. Tu parli adesso, quello ripete, parli adesso, l'altro risponde e poi devi aspettare la risposta via radio. C'è un ritardo, è come parlare con la luna praticamente. Parlare con la luna, perché tu parli con la luna? No, ma dico i 2 secondi di ritardo, no? Marco, tu sei malato, lo sai, sì. Ah, sì, un pochino. Meglio tiragli la bomba, fallo sussultare. Gianni, sveglia! No, forse non ce la sente, mi fa male troppo il dente. Vabbè, se stai ascoltando, buonanotte Gianni. Gianni, ti vogliamo ricordare così. Buonanotte, caro. Così come, col dente dolente? Così, ancora felice, prima che il dente sia dolente. Luca, hai deciso? Luca non c'è, è andato a fare la pipiscia. La prostata. Non è la prostata, quelli sono i litri di birra. E come si chiama l'altro cinese, mi hai detto? Forse non c'è su eBay, ci dovrebbe essere, perché l'altro non c'era. Sì, c'è su eBay, si chiama Radiozone. Radiozone oppure Radiozone tutto attaccato. Lo riconosci perché è come l'altro, no? una scatolina piccole dimensioni. Comunque quell'apparecchio è bello farlo lavorare per esempio con anche un Vauxhall, lo regoli al minimo, metti mezzo watt reale e hai un ripetitore già buono. Se poi metti 4 watt è ancora più buono. Potrei suggerire durante la ricerca, se non lo trovi prova a mettere radiotone repeater, repeater praticamente, no? Ripetitore in inglese. Ya? No, su di me non c'è. Strano, hai provato a scrivere radiotone attaccato oppure radiotone su eBay? Appena fatto, niente. Se la persona che viene nel FM. L'accessore non influisce, no? Attaccare non serve niente. Beh, però non influisce attaccato, no? Qual è la differenza? Così è con, così è senza, vedi un po'. Si è abbassato un po' il volume della modulazione, però non la differenza. A me l'FM piace francamente, a me modulerei sempre l'FM come con le norme CEPET europee, però qua non fa, capito, perché sennò non si splatter abbastanza. Ma ti ripeto, perché l'AM è la modulazione dei rompiballe, di quelli che devono fare i gaudi, che se la voce non è così o colà o cc o cocco, noi siamo tutti uguali e tutti a palla, è lo stesso finale dell'apparato. Però in un certo senso lo stresso, perché è 50 watt. Vabbè, non lo può lasciare, non può. FM riserva doppia e dopo. Va bene, poi lo cercherò io se c'è questo radiofon, sicuro che il venditore che lo vendeva non lo venda più, che si è esaurito. Adesso guarda, poi io sto tornando adesso, sentiamo domani, dai, con 144, quando lo farai, 73, qui, ciao. Ok, no, io vado a cenare praticamente. Sì, a te, ciao, ciao, buonanotte.